abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Prova adesso Verdi, che va alla conclusione, trova l'1-0, un gol straordinario, 1-0 Bologna, col sinistro di Verdi. Chiaro che se ci metti questa intensità e questa qualità diventa tutto più semplice, tutto più facile, e stasera ci sentiamo dal punto di vista del risultato un po', come dire, derubati. Ma questa è la strada giusta, è la strada giusta, e se si interpreta così i risultati verranno con i tre punti, non solo con uno. Icardi contro Mirante, va col destro, 1-1. Mi sembra esagerato, derubato, però se avessero vinto sicuramente non c'era da dirgli niente, ecco. Ma io dico che noi dobbiamo fare più di così, però non lo trovo così scandaloso poi che la squadra sia riuscita a pareggiare, ecco. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati, regia, sano rock per parlare di questo di questo Bologna-Inter. Approfitto dell'ospite, lo incendio subito, mio fratello Tommaso Labate. Ciao Carlone. Sono contento solo se parlo con Tommaso Labate. Ciao a tutti i radioascoltatori. Ragazzi, se mi sentite male è perché ovviamente seguendo tutti gli standard di sicurezza, tutti i codici della strada, quindi ho auricolari e tutto, ma sto guidando, però mi sento bene. Bene, buongiorno a tutti. Proviamoci. Buongiorno a lei, dottor Labate, rubacchiato a Bologna, pareggio rubacchiato a Bologna. Così ho sentito, la partita l'ho vista in differita ieri sera senza avere risultato perché stavo impegnato in impegni pregressi, e così ho sentito anch'io parlare della parola furto. Beh, furto è tanta roba, dai, non mi piace applicata al calcio, preferisco il termine romano zottato o rubacchiato o dimmene tu qualcun altro, dai. Guarda, usiamone di più simpatici. Se fossi stato tifoso di un'altra squadra avrei avuto, diciamo, più verbi a disposizione per un determinato tipo di significato. Chi vuole intendere intenda. Hanno inteso tutti, adesso infatti mi inondano di telefonate 800 24 00 24, e poi me la piglio con te. Comunque, vi siete un po' ridimensionati voi interisti dopo questo pareggio? Guarda, io sono andato, presente come quelli che ti invitano a cena e no, guarda, vengo già mangiato. Io rispetto a ieri sono andato già ridimensionato, perché diciamo avevo un po' che presepe non era così bello come ce lo disegnavano. Tra l'altro avevo avuto modo di sostenerlo nel corso di un'autorevolissima trasmissione televisiva del lunedì sera, di cui non ricordo il nome. No, non ricordo neanche io, non ricordo neanche chi è il conduttore, che adesso però sta arrivando. E quel ragazzo magro. Sì, quello magro, esatto, un po' sofferente. Sì, esattamente, sì, sì, proprio, comunque proprio da lui io avevo detto che effettivamente questo punteggio pieno era eccessivo per come la squadra stava giocando. Io non sono d'accordo con te, perché voi tifosi alla fine siete tutti uguali. Parlo con Oscar Giannino del Torino e mi dice ma no, non sono convinto, non sono contento. Parlo con Cruciani, tifoso della Lazio, ma... sì, siamo forti, però siamo poco profondi. Cioè, siete mai contenti voi tifosi? Non siete veramente mai contenti. Io fossi un tifoso interista sarei invece contento, perché a me sembra... No, ma io sono contento. Questa, allora, il grande equivoco, l'ho già detto nei giorni scorsi, lo ripeto, guardando i risultati, guardando come l'Inter vince. Allora, il grande equivoco è quello di fare 1+1 con l'Inter di Mancini, quella dei tanti 1-0. A me questa squadra sembra un po' diversa. Sì Carlo, hai perfettamente ragione, però se tu guardi le partite dalla prima alla quarta hai praticamente l'ordine in cui hanno meglio giocato. La migliore è stata la prima, poi la seconda, poi la terza e poi la quarta. Quindi diciamo, se noi l'analizzassimo con l'occhio lucido del cronista disinteressato, noteremo una squadra che ha iniziato benissimo e poi ha giocato peggio. Poi può essere, come dire, un problema di preparazione, ci possiamo dobbiamo buttare dentro la filosofia, la religione, il karma, però sono dati di realtà. La classifica rispecchia, secondo me, in maniera molto generosa quanto ha giocato. Detto questo, siamo felicissimi, e non è ovviamente tempo no, ma è chiaro, di aprire progetti. Avete anche vinto all'Olimpico di Roma, uno dei assolutamente, che non mi sembra paglia. È arrivato in onda quel ragazzo magro che citavi. Come si chiama? Non mi ricordo come si chiama. Scusi, come si chiama lei? Larrotino, è arrivato Larrotino. Coltelli, forbici, ombrelli. Ma no, Tommy, ti sento veramente male. Cioè, caro l'abbate. Caro Tommaso. L'abbate erano quattro partitine, dai. Senti come esce. Guarda che il non arriva da me. Ma cos'è sto casino, ragazzi? È pardo, non so. Che è sto? Stiamo provando una che secondo me No. Vabbè, allora facciamo ordine. Chiamare Pardo al solito telefono, che tanto si sente come si sente, perché sennò fu uscio totale. Io ne approfitto per fare uno spottone. Tommaso Labate, sai che voli aerei permettendo, orari, se tutto si incastra, venerdì a quest'ora su questo tavolo verrà appoggiata la Champions League, quella vera. Ma dai. Ma vengo a toccarla a Milano allora. Ti aspetto, Tommy, con Kivu e Cafu che ce la porteranno e saranno nostri ospiti. Dici poco. Kivu mi ricorda uno che l'ha vinta. Non vorrei sbagliarmi, però. Sì, sto lavorando anche per avere in onda l'ultimo capitano ad averla alzata. Mi sembra che tu lo conosca. Credo che tu sappia chi sia. Ma ho qualche vago ricordo, ma mi chiamate per questa cosa? Signor Savario, ma certo che ti chiamiamo. No, certo che ti chiamiamo. No, ma ti chiamiamo, l'unica cosa che non usi l'auricolare se non te sento. E pertanto la salute, ci sentiamo venerdì. No, è bella questa cosa. Ciao Tommy. È bella questa cosa di Labate che per solidarietà nei miei confronti usa l'auricolare, sì. Usa la voce per fare in modo che non sia mio, allora. Che non sia mio il peggior telefono della giornata. Sì, ma però mettiti nei miei panni una volta. Cioè, io mi ci metto. Sono... Abbiamo provato l'applicazione nuova, c'era grande entusiasmo, Houston, benissimo. Houston abbiamo un problema. Apollo 13 si sentiva meglio. Sì, un giorno o l'altro. Dimmi dell'Inter. Ma mi deludente sembra a Bologna. Deludente, è quasi banale dirlo. Ha giocato una partita, ha scelto il poco turnover Spalletti. Quindi, se stecchi cambiando poco, il tipo di analisi che devi fare è che forse quelli che hai messo in campo erano un po' stanchi. Che può essere, secondo me, il tema dell'Inter di quest'anno, il possibile limite dell'Inter, nel senso che l'Inter ha il grande vantaggio di non avere le coppe, e ha, però, l'abbiamo detto da 31 agosto, da quando non si è concretizzato l'acquisto del difensore, in generale non ha molta abbondanza rispetto ad altre squadre, anche rispetto alla stessa Roma, no? La Roma recupera i giocatori, alla Roma, al Napoli, alla stessa Juve, anche allo stesso Milan, cioè, se guardiamo la quantità di giocatori, l'Inter ha delle gerarchie più semplici, e infatti sono quasi sempre quelli. Ieri sono stati due cambi rispetto alla partita precedente, ma insomma chi si aspettava un po' di turnazione in più non l'ha fatta. Io comunque penso anche che in questo inizio di percorso Spalletti abbia l'esigenza di provare la squadra tipo, e credo che, conoscendolo un po', il turnover arriverà più avanti, e credo anche che faccia benissimo, peraltro. Sì, ma ci stava, poi lui ha il punto dello spogliatoio della situazione, quindi non è che siamo noi e dobbiamo decidere chi deve giocare. Però è un dato oggettivo. Ieri due cambi rispetto a Crotone, considera che Dalbert era uscito con qualche problema muscolare alla fine di quella partita, Nagatomo era una turnazione abbastanza logica, e poi quella solita abbondanza in mezzo al campo lì fra Vezzino, c'è Mario, ovviamente Jardine e Barcavallo, c'erano quattro giocatori per tre maglie. Ieri ho visto una squadra opaca, no, in realtà non molto diversa da Crotone, perché poi bisogna pure essere onesti, a Crotone l'Inter non ha fatto una grande partita, ha vinto perché Andanovic ha fatto grandi parate, alla fine l'Inter ha avuto la capacità di essere sfidata su un paio di situazioni. Ieri di fatto questo non è avvenuto, perché Verdi ha trovato un gran gol, però il risultato ci sta. Quindi... è Verdino grande, Verdino ieri ha giocato una partita, ha giocato una partita veramente di altissimo livello. Dall'Inter mi aspettavo di più nel primo tempo come approccio alla partita, mi aspettavo di più nel secondo tempo quando doveva reagire, secondo me il secondo tempo migliore dell'Inter, è anche perché il Bologna aveva speso molto e anche dopo l'1-1, quindi con una situazione psicologica assolutamente favorevole e un Bologna stanco, mi aspettavo qualcosa di più proprio certo. In termini di occasioni. Senti, al volo, Mauro dalla provincia di Brescia, primo ascoltatore di oggi, 800 24 00 24, poi traffico e poi inquadriamo la giornata di oggi, turno infrasettimanale che di solito è bizzarro, no? Che spesso ci regala dei risultati strambi, soprattutto inizio stagione, quindi c'è molta curiosità. Ci sono due partitissime che sono Juventus-Fiorentina naturalmente e Lazio-Napoli soprattutto. Mauro, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. A lei. Un paragone tra l'Inter di Spalletti e quella di Mancini. Vincevano entrambe, poco convincente il gioco, soprattutto come è stato evidenziato a scemare dalla prima alla quinta giornata, e un Inter molto statica, sia davanti che a centrocampo. Secondo me anche un po' rivitalizzata con l'ingresso di Eder, anche se magari meno equilibrata, e una curiosità se riuscite a gestirmela, sì. Candreva, incensato come l'uomo che crossa di più, però secondo me è crossa di più ma crossa male, palle poco sfruttabili. Beh, ascolti, se io colpisco sempre l'uomo, ieri sera ha battuto 3 calci d'angolo sul primo giocatore sul palo. Non è possibile. Può capitare, capita spesso purtroppo. Io non discuterei che Andreva. Può essere giù di condizione, può essere stanco. Ieri ha giocato male, però non discuterei un giocatore come Candreva. No, ma l'origine, secondo me l'ascoltatore ha sentito Sky e non Premium, perché quel dato ce l'avevo ma non l'ho dato. È un dato di una cartella stampa degli amici di Opta, che sono molto bravi e che fanno ovviamente tutta una serie di rilievi statistici, e c'era per esempio il fatto che Skriniar era il primo del campionato per numero di respinte di testa e Candreva per numero di cross effettuati. Di fatto ieri Candreva, sì, sono d'accordo, cioè, conta ovviamente che i cross siano anche cross importanti, un conto è il cross di Florenzi. Beh, per ma Diego. No, è chiaro Pier. Ma ieri Candreva non bene, ma, no, ma non, però bene, se... non bene tutta l'Inter. No, insomma. Non bene tutta l'Inter, appunto, però se ci mettiamo a discutere Candreva in un contesto certo, come questo, certo. Allora ciao. Però secondo me è chiaro che uno deve partire da una sua base, no? Così come Montella nell'ultima settimana ha rivisto un po' le gerarchie, perché probabilmente si stava fidando troppo di quelli che l'avevano traghettato nel tabellone principale dell'Europa League. E allo stesso modo Spalletti ieri si è affidato giustamente dei suoi. Ah certo, ma ti dico, però, sono prove tecniche di trasmissione del tutto legittime. Eder aveva fatto 8 minuti prima di ieri sera, 8 minuti in campionato, quindi è chiaro che... Però insomma, è anche vero che mentre il Milan ha tanti giocatori, l'Inter ne ha di meno. Quindi l'Inter ha delle gerarchie secondo me un pochino più definite. Certo, ed certo. È appesa secondo me alla necessità di non avere grossi infortuni. Detto questo, chiaro. È un pareggio... Bologna non lo vedo male, non è un risultato catastrofico. No, ma assolutamente. Però è un passo indietro. Allora, traffico, torniamo. Noi abbiamo bisogno di ognuno di voi. Domenica zero deleghe. Tutti convocati. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta... Convocati. Dunque, cominciamo a guardare oltre la siepe della serata, o attraverso la siepe della serata, Pierluigi. No, dicevo prima, quinta giornata, soprattutto a inizio stagione, non so bene le ragioni, o meglio, si possono immaginare le ragioni. Giocare per molte squadre, giocare ogni 3 giorni è complicato. Spesso nei turni infrasettimanali ci sono risultati bizzarri, capita spesso, magari molti gol segnati. Ti aspetta, dove vedi le sorprese? Dove possono uscire le sorprese? Ma io non vedo, cioè, ieri in ogni caso è una mezza sorpresa, perché comunque in un campionato così sbilanciato fra grandi e piccole, che una squadra a punteggio pieno pareggi rischiando di perdere a Bologna, con tutto il rispetto per il Bologna, ieri ha fatto una grande partita, è una sorpresa. Senti, su questo tema vado random, visto che l'abbiamo subito in collegamento, posso sentire Serse Cosmi? Chiaro. Serse, buongiorno. Ciao. Salve, buongiorno a tutti. Allora, Pardo parlava giustamente di uno dei macro temi di questo inizio di stagione, cioè il grande squilibrio, la forbice sempre più larga che c'è tra quelli di sinistra della classifica e quelli di destra. Tu hai allenato sia a sinistra che a destra, come la vedi? Non sto parlando di politica, Sì, no, capito. No, beh, in Serie A ero quasi sempre a destra, anche se mi è capitato di essere a sinistra, di vivere qualcosa a sinistra. No, vabbè, è chiaro che ogni campionato si parla di un tema in particolare, no? Tra le, diciamo, rimangono quelle due o tre squadre che poi si giocheranno lo scudetto, e allora si dice che tra quelle due e le altre c'è troppa differenza. Quest'anno la sensazione, almeno per quello che riguarda il vertice, è che ci sia un equilibrio, insomma, almeno iniziale, insomma. Non mi stupisco del fatto che poi la classifica si tiri la metà, perché oggettivamente la composizione delle rose, il valore delle rose, non può che determinare questo. Non te l'ho ancora chiesto, non ci siamo ancora sentiti. La Juventus è sempre favorita o c'è qualcosa che non ti convince? No, la Juventus rimane favorita, perché a mio giudizio gioca un ottimo calcio, perché poi la sensazione è sempre quella di dire che le squadre che vincono non giocano bene. Ma come no? Se hanno fatto un mazzo così ad Allegri dicendogli che giocava male. Vabbè, ma lasciali perdere, dai. Ma come lasciali perdere? No, io non li lascio. Ma ragazzi, ma Allegri, se discutiamo Allegri è finito tutto. No, ma non lo dico io, Pierluigi, sai come la penso. Ma c'è pure chi dice cose irripetibili, voglio dire, non è che dobbiamo stare... Allegri gioca, ha ottenuto dei risultati straordinari. Due finali di Champions in tre anni non sono una cosa normale. Poi certo le ha perse, e la differenza in finale fra perdere e vincere è enorme, soprattutto nella testa dei tifosi, degli avversari, dei gufi che giustamente godono della sconfitta della Juve. Ci mancherebbe altro, noi siamo laici, non ce ne può fregare di meno. Quindi la differenza tra vincere e perdere c'è, però il dato complessivo oggettivo della Juve di questi tre anni è un dato straordinario. Una squadra che ha vinto con Allegri tre campionati su tre, ha vinto le Coppa Italia, ha centrato due finali di Champions, cioè è un risultato, tanto per essere chiari, nettamente migliore dal punto di vista quantitativo di quelli che ha ottenuto Conte. Conte ha avuto il grande merito di costruire la sua squadra, ma Allegri è comunque ogni volta fa due pari ed è esposto a critiche, e giochi male, ma non gliene perché... può fregare di meno, fra l'altro. Beh, sai, però possono anche girargli, no. Serse, che ne pensi? Ascolto, sono d'accordo con Pierluigi, ma disquisivo proprio sul fatto della qualità del gioco. Cioè la Juventus, oltre che i risultati che raccontava Pierluigi, li ha ottenuti giocando un ottimo calcio. E il problema nostro, il nostro mondo, qual è il senso del bello? Quello che significa giocare bene, perché ognuno di noi pensa che c'è un concetto diverso del bello per quello che riguarda il calcio. Estetica, e spesso pratica, i perdenti sono quelli, i perdenti vengono sempre etichettati come quelli che giocano il miglior calcio, che comunque sia una stronzata, perché che significa? Uno può anche giocare il miglior calcio vincendo, voglio dire. Quindi, e allora dove, diciamo dove colloquia appunto Napoli, allora, secondo me c'è una cosa vera e oggettiva, cioè Sarri, il gioco del Napoli è veramente un'eccellenza no estetica. No, scusate, io ti interrompo, no, questo non significa che il Napoli non giochi un grande calcio. No, appunto, gioca un grandissimo calcio, esatto, come la Roma, questo stavo dicendo, certi periodi ha giocato un grande calcio, è quello. Però, questo stavo dicendo, cioè la bellezza del Napoli è qualcosa di fuori dal comune. Che il Napoli giochi un calcio esteticamente meraviglioso in certi momenti, c'era una clip l'altro giorno, perché dal Benevento, non è Real Madrid, ma di un'uscita palla al piede, ma anche il gol a Nizza, il secondo gol a Nizza, ve lo ricordate, quella serie di passaggi. Cioè, che il Napoli giochi un calcio meraviglioso è indiscutibile, ma non vuol dire che la Juve gioca un calcio brutto. Ma no, la Juve non ha giocato un calcio brutto, ha giocato un calcio molto molto pratico, no, molto concreto, in certi momenti anche bello. Non ha giocato il calcio, ma sono d'accordo. Io sono d'accordissimo. Napoli è chiaro che il Napoli esteticamente è più bello. Che dobbiamo fare? Harrison. Sì, però il Napoli ma chiaro, Pierluigi. Però il Napoli adesso deve portare a casa l'argento, giusto? Perché sennò rimane una meravigliosa incompiuta. Vedete, scusate, è come se noi dicessimo che oggi il Napoli per vincere deve giocare peggio. No, il Napoli deve seguitare a giocare così e avrà la possibilità di vincere. Il discorso mio era solo sulla Juventus, o chi vuol criticare un certo calcio, soprattutto il nostro, quindi il calcio italiano, a prescindere, è una grande stupidata, secondo ma me. Assolutamente, non mi trovo d'accordo. Ma ci mancherebbe altro. Però intanto il Napoli, ad esempio, lo voglio vedere stasera sul prato di una Lazio che a me piace da morire. Non so come la giudichi tu la Lazio, anche dal punto di vista estetico. secondo me è una squadra molto ben allenata, molto sottovalutata, ed è una squadra tosta. Quindi questa sera il Napoli all'Olimpico, partita forse più difficile di questo inizio stagione, Sì, io penso sulla Lazio esattamente come te. La Lazio è sottovalutata perché la gente non, molti non sono attenti a quello che invece Inzaghi ha fatto nell'anno precedente e in questa prima parte. La Lazio gioca un calcio moderno, la Lazio gioca un calcio su se stessa e anche sull'avversario, e quindi dimostra una elasticità mentale nell'allenatore e di conseguenza nella squadra che è sinonimo di intelligenza, di forza. Quindi per me in assoluto è la squadra, la vera sorpresa di questo inizio l'anno stagione. Precedente di questo inizio stagione è la Lazio, perché la Lazio sa giocare spesso in maniera diversa, e questo, ripeto, non è un sinonimo di mancanza di personalità, è proprio sinonimo di grande intelligenza di un allenatore che ha comunicato ai propri giocatori i concetti di gioco che mette in campo, e anche da un punto di vista estetico la Lazio gioca un ottimo calcio. È chiaro. Quello secondo sempre la mia visione. Ma anche secondo la mia, ma poi non sottovalutiamo i giocatori, perché c'è gente come De Vrij, Milinkovic-Savic, lo stesso Felipe Anderson, Parolo, e ce ne sono parecchi che io mi piglierei in qualunque squadra, detto tra noi. Ciao, certo. Serse, grazie, a presto. Ciao. Grazie a voi, ciao, a prestissimo. Ciao. Serse Cosmi, Carlo, dimmela. Carlo. No, ti dico che i grandi giocatori della Lazio che ci sono, perché è ovvio che Immobile, Milinkovic, Savic, Tetrai siano grandi giocatori, sono giocatori che la Lazio si è costruita. Cioè la vera forza e la vera bellezza del lavoro che ha fatto la Lazio in questi anni è che non è andato a prendere i giocatori a 30, 40, 50 milioni di euro, è andato a prendere dei giocatori che sono diventati top player. Milinkovic-Savic lo è sicuramente, non c'è dubbio. Immobile è un giocatore che veniva da dei fallimenti o comunque degli anni complicati, e la Lazio l'ha rimesso in sella in una maniera più significativa. E poi ci sono tanti altri esempi magari meno appariscenti di giocatori comunque importanti, De Vrij sicuramente, ma anche i ragazzi, anche Bastos, anche ovviamente il lavoro che è stato fatto con Lukaku. È una squadra che ogni anno trova delle soluzioni, e devo dire che Sarri è bravissimo. Se vogliamo discutere questa roba qua, no, allora di che stiamo parlando? Sì. Senti, ti propongo Giorgio da Provincia di Prato al volo prima della borsa. Vai Giorgio, sì. Buongiorno. Ciao ragazzi, ciao. Io sono tifoso Viola, ma essendo un appassionato di calcio, un paio di cose veloci sull'Inter. Sì. Una, che io le partite le vedo praticamente tutte. A parte il fatto che l'Inter, a mio parere, tre delle cinque partite giocate meritava di perderle. Quella di Roma, quella di Crotone e quella di ieri. Perderle io, tanto. Dopo la partita di ieri sera, sentivo qualcuno che si lamentava per la lentezza di Borja Valero. Ragazzi, Borja Valero, questo... Borja Valero è un giocatore che è molto abile nel farsi trovare smarcato a 3 o 4 metri dal portatore di palla per dargli un'opzione di passaggio in più. Ma se la gente pensa che Borja Valero sia uno che gli fa gli strappi, oppure che sia un giocatore che fa la sgruppata, hanno comprato il giocatore sbagliato. Ma io credo che nessuno pensa questo. 200%. Borja Valero è un giocatore. Borja Valero è un giocatore. Mi ricorda Pizarro. È un playmaker. È un playmaker. Playmaker Inter, Roma, Udinese di pochi anni fa. Cioè sono quei giocatori di grande qualità tecnica, di grande palleggio, di grande esperienza, di grande senso tattico. Poi non è che ti puoi chiedere una velocità supersonica da questo punto di vista. Puoi chiedere di farsi 30 metri sulla fascia e metterli in mezzo, no, perché è una cosa volante, ecco, però molto tecnica. Da questo punto di vista Pirlo, che qualcuno potrebbe pensare che fosse una certa caratteristica, invece, e lui ci teneva tantissimo a sottolineare questa cosa, aveva una grande capacità anche nell'interdizione, nel recupero del pallone. Pirlo è passato giustamente alla storia come playmaker che prima Mazzone e poi Ancelotti hanno impostato davanti alla difesa, ed è stata una rivoluzione tattica. Ma in realtà Pirlo aveva anche una grandissima capacità dal punto di vista di interdizione, dal punto di vista dinamico, che né Pizarro né Borja Valero hanno. Certo. Detto questo, è un acquisto secondo me intelligente. Ma l'Inter farà bene, la partita di ieri condiziona un po' l'umore e ci fa probabilmente vedere in maniera anche un po' diversa altre situazioni in cui l'Inter aveva vinto senza brillare, o rischiando molto come all'Olimpico contro la Roma, oppure comunque rischiando un po' meno ma senza veramente brillare come era successo sabato a Crotone. Chiaro. Che ci sia una distanza con Napoli e Juve è evidente, Bisogna capire l'effetto Coppa Europea, però... Adesso fermiamoci per la borsa, torniamo subito dopo. Subito dopo l'intervallo, la lotta a tanti. continua. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. La stazzata di Lulic mette a sedere Calabria, palla bassa in mezzo, pallone girato, posizione regolare, ancora lui, Ciro Immobile, 3-0. Insigne, lo scambio ancora con Marek Hamsik, aspettano lo sviluppo dell'azione, Mertens e Caglion dentro l'area, il pallone arriva e Dries Mertens firma il 3-0. Rischia e sbaglia, serve Immobile, Immobile va da solo contro Perin, Immobile contro Perin, pallonetto, palo e poi gol, due volte Ciro Immobile, erroraggio di Gentiletti. Mertens scippa Pulgar che ancora pensava alla punizione, entra in area di rigore, calcia col sinistro, non poteva mancare Dries Mertens, 2-0 per il Napoli che chiude la partita col suo fenomeno Dries Mertens, 2-0. Super bomber l'un contro l'altro armati questa sera, uno dei tanti temi di Lazio-Napoli è appunto la sfida tra due che la mettono praticamente sempre. Beh, è la sfida dei Ciro, no? No, è vero, perché Ciro è napoletano di Torrannunziata, se non sbaglio, quindi insomma comunque della zona vesuviana. L'altro Ciro viene da un po' più lontano, ma ormai è napoletano, sì, sì. Ama la città, è amato dai tifosi. Io lo dico sempre, De Luca, so che sta, io sono sicuro, anzi dimmelo, quando sta per annuire dietro al vetro dimmelo. Aspetta, ma è la verità, cioè per giocare a Napoli bisogna avere una passione, un'adesione. Sta facendo sì col testone. Lo so. Sta facendo sì col testone. Un'adesione alla città, ai suoi valori, a ciò che rappresenta. Guarda che ti sta ascoltando anche un altro napoletano, nostro amico, sì. Dovina. Non lo so, Marco, no. Marco Belli, esatto, Benazzo. Proprio lui. No, guarda, leggevo delle cose che stanno succedendo in Catalogna dal punto di vista politico e pensavo a quel MES che è un club e poi pensavo banalmente che senza ovviamente quelle valenze politiche, perché fortunatamente in Italia nessuno né a nord né a sud pensa a secessioni o separazioni, però pensavo che fosse quello, cioè non è soltanto una squadra di calcio il Napoli, è un'appartenenza, è la rappresentazione di una città. State of mind, sì, quindi state voglio dire. Mind. E Ciro Mertens, perché così va chiamato, come Hamsik, ha scelto questa città, ha scelto di appartenere a questa gente, a questa terra. Non è banale, non è. No, l'ha detto anche De Laurentiis qualche volta, no? Cioè, a Napoli se uno non si sta bene perché magari è meglio che cambiare, se non si trova bene, capito, ma sposa la causa o va via. Ma anche banalmente perché è in difficoltà per la troppa pressione e per il troppo amore, perché lo sappiamo benissimo. Io mi ricordo una volta la Vezzi dentro a un centro commerciale e si creò una fila è ovvio che è diverso da giocare a Milano dove al massimo ti chiedono un selfie nel quadrilatero. Sì. Sono due modi entrambi rispettabili di vivere, però è chiaro che se non decidi di appartenere a questa cultura, se non sposi la causa, esatto, meglio cambiare aria. E Mertens, che non è proprio esattamente del vomero, però l'ha sposata. Belinazzo, dove stai? Dove sei? Quasi commosso, sono qui in città, qui a Napoli. E devo dire che condivido insomma tutto quello che si sta dicendo, tutto quello che Pier sta dicendo, e soprattutto bisogna capire come rendere questo progetto longevo, al di là diciamo di momenti estemporanei o di annate in cui la squadra può andare bene, e si aprono una serie di finestre di opportunità in questo momento per la società per fare una serie di investimenti, insomma, poi magari ne parleremo più diffusamente in altre occasioni. Sì, che ci fai, Napoli? Che ci fai lì? Beh, oggi alle 18 con un altro tifoso napoletano, prima della partita, cioè Maurizio Di Giovanni, presentiamo però alla Feltrinelli, alle 18 i veri padroni del calcio, a proposito di calcio, politica e geopolitica, e si parlerà anche molto di di Napoli, ripeto, di progetti che De Laurentiis dovrebbe fare per rendere questa società preparata a quello che sta avvenendo nel calcio globale. Domani replichiamo a Caserta, al nuovo Pacomio, altro locale a 18:30 con altri giornalisti napoletani. Il tema è molto caldo, la città sta vivendo molto da vicino questo sogno. Vediamo se questo spartiacque, la partita con la Lazio, sarà una doccia gelata. Invece se dai, allora, visto che te la sei cercata, pronosticone di Berinazzo e Pardo, poi andiamo da Alberto, ascoltatore della provincia di Lecco. Prima Pardo. Per me conta il pronostico nella sfida con Capuano. Tra l'altro Capuano, ragazzi, posso dire che tanto non ci ascolta questo, ma Capuano è una cosa incredibile. Poi si lamenta, capito? Dice, ormai siamo alle polemiche via WhatsApp tra me e lui, dice, se hai pareggiato è solo per merito di Gentiletti. No, la Lazio meritava di vincere contro Genoa, mentre Torino-Samp non si sa come sia finita in parità. È una roba proprio da astrale. Io ho detto X. In realtà la partita è impronosticabile, cioè una partita complicata. Penso che il pareggio sia un'ipotesi. Sì, direi X anch'io. Io vado sull'X2 giusto per avere un'opportunità in più. Vabbè, certo. Vabbè, ti prendi la doppia, vabbè. Facciamo 1X2. Ah, e tagliamo la testa al topo. Però sì, tendenzialmente più X2 che 1X. Su questo sono abbastanza d'accordo. Cioè, io penso che comunque, anche se la Lazio sta facendo cose straordinarie, la qualità del Napoli sia superiore. Poi ovviamente è tutto da vedere. La Lazio non muore mai, è una caratteristica e non me la vedo, perdere questa partita in questo momento della stagione, sinceramente. Io propendo, sono d'accordo con Pardo, un pareggione stampato. Grazie Marco. Grazie a voi, a presto. A presto, ciao, Marco Berinazzo. Al volo Alberto, provincia di Lecco, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Sigo quasi sempre, soprattutto a Pardo, dato che sono il suo ammiratore, fan, e ho colto l'occasione per sfidarlo a FIFA 17. Comunque, detto ciò, io sono interista e volevo dire che nelle ultime due partite dell'Inter ho notato quell'atteggiamento da parte dei giocatori che avevo già visto l'anno scorso a fine stagione, ovvero menefreghismo, giocatori che giocano solamente per se stessi. E un po' me l'aspettavo una prestazione come quella di ieri sera, dopo aver visto appunto la partita a Crotone, che secondo me è stata imbarazzante. E da parte vostra volevo sentire un giudizio sulle ultime due partite di Icardi. Vai, Pier. Ha giocato male. Però qui cadiamo facilmente nella banalità. Icardi ha giocato male a Crotone, ha giocato male ieri. L'Inter ha giocato male a Crotone, ha giocato male ieri. E sicuramente insomma il risultato condiziona, no? I giudizi. Cioè, se uno vuole essere pessimista, dice, adesso ti faccio il ragionamento del pessimista: l'Inter vince la prima giornata con la Fiorentina grazie a una mezz'ora straordinaria, con la Roma va sotto 1-0 con un rigore negato che c'era e tre pali, e poi ha 20 minuti fantastici di estasi, vince con la Spal senza brillare, vince a Crotone senza brillare, pareggia col Bologna. Questo è il punto di vista del pessimista. Il punto di vista dell'ottimista è uno che dice: ci sono 13 punti, la squadra comunque ha saputo cavarsela in situazioni non semplici, e comunque ci sono delle chiarezze tecniche di questa squadra, che secondo me, cioè il punto fondamentale è che Spalletti ha fatto chiarezza. Poi sicuramente insomma la qualità della, se l'Inter non cresce, allora, se l'Inter non decolla come progetto, non migliora, non va lontano. Il progetto, certo, Inter è interessante perché non ha le coppe, perché comunque negli 11, 13, 15 giocatori ha dei valori assoluti importanti, e tendenzialmente se non si fanno male i giocatori di maggiore talento, con due competizioni sole può arrivare lontano. Però insomma Juve e Napoli mi sembra un'altra cosa, e dal punto di vista quantitativo Roma e Milan hanno secondo me di più. Certo, l'Inter ha una rosa tipo la Lazio. Non è cambiato il ranking stagionale in queste prime quattro partite. È sempre Juventus, Napoli, Inter, Milan. Metti una davanti all'altra. Io però la Lazio come outsider ce la vedo sempre. Anche la Roma, anche la Roma, beh, chiaro. No, anche la Roma, l'ho solo dimenticata, ma è evidente. La Roma fa mezz'ora folle contro l'Inter dopo essere andata comunque 1-0 con un rigore che c'era. poi non gioca a Genova, e forse è stato anche un bene perché non era un momento fantastico, però la Roma se recupera i giocatori, cioè la Roma davanti a 6 come il più scarso tra virgolette è De Frel. No, ma sicuro, sicuro. Cieco, De Frel, però Pier Sharawi, Under e Schick, cioè a centrocampo a cambi a profusione, dietro a qualche dubbio in più, però ecco, se tu pensi alle 38 partite è... Grazie. Quindi, Piero, senti, devo salutarti che sono in ritardo e adesso devo parlare di ciclismo col commissario tecnico della nazionale italiana. Io ti ascolto, Davide Gassani. Io ti saluto Alex Zanardi, Bancale, ti ho fatto una mattinata fantastica, grande, ne parliamo tra 6 giorni, ciao, fuori Pierino. Paralimpici, bellissimo. Ciao Pierluigi Pardo. Ah, vi ricordo, tra l'altro, per inciso, no, ve lo ricordo dopo il traffico che siamo già in ritardo. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. Mondiale di ciclismo in Norvegia in corso e ieri abbiamo stretto nel pugno una medaglia che mancava da diverso tempo, da 15 anni esattamente, con Antonio Puppio che ha vinto l'argento nella Crono Under 19. Il CT, Davide Cassani, buongiorno. Ciao Davide. Buongiorno. Ciao. La voce Pier Augusto Stagi. Ciao Pier. Ciao Carlo, buon pomeriggio, ciao Davide. Allora, vai tu Pier, inquadratemi in 5 minuti, ditemi tutti in 5 minuti di quello che succede, è successo e succederà in Norvegia. Pier. Ma quello che succederà non sono mago, però sono convinto che Davide abbia allestito una squadra forte di 4-5 punte che possono essere degli assaltatori, dei guastatori. Diciamo che le altre nazionali hanno delle individualità in più, Sagan a parte logicamente quei favori del pronostico, la Norvegia agguerritissima con Kristoff e Boasson-Hagen, il Belgio ha solo l'imbarazzo della scelta, però guai a loro se ci sottovaluteranno. Noi per una volta, io spero, quello lo dirà poi il CT, spero che la corsa la inseguano, la guardino, stiano attenti, non la segnino in maniera attiva, cioè la conducano come spesso è capitato alla nazionale italiana. Devono giocare di rimessa con grande lucidità perché abbiamo delle buone seconde punte che però non sono seconde scelte, sono prime scelte. No, diciamo che giochiamo col falso 9, Davide. Ma diciamo che abbiamo una nazionale in forma, come ha detto Pier, ci sono campioni che hanno già vinto dei mondiali, delle Olimpiadi, delle Sanremo, dei Fiandre e dei campionati del mondo. Noi abbiamo dei corridori che sono cresciuti, in primis Matteo Trentin, che fino all'altro giorno ha fatto il gregario, si è ritrovato capitano alla Vuelta, si è portato a casa 4 tappe, un Elia Viviani che è riuscito a vincere 2 belle corse, un Tony Colbrelli che quest'anno ha dimostrato di essere diventato corridore in grado di poter ambire a successi importanti, anche se questi successi importanti non li ha ancora ottenuti. Io penso che non siamo la nazionale più forte, ci sono delle individualità straniere che sono fortissime e saranno i favoriti. Noi cercheremo di correre da squadre come abbiamo sempre fatto. Nelle ultime corse siamo stati bravi, abbiamo ottenuto risultati importanti, abbiamo rischiato di vincere un europeo, abbiamo perso per 1 centimetro, abbiamo perso un'Olimpiade perché Vincenzo è caduto e quindi cercheremo di dare il meglio di noi stessi, sapendo quali sono le nostre capacità e i nostri limiti. Davide, a 3 giorni dal Mondiale, cosa va, cosa non va? Cosa ti lascia tranquillo, cosa ti preoccupa? Tranquillo mi lascia il clima che si è instaurato tra i ragazzi, tranquillo mi lascia il fatto che comunque è una squadra in forma, non ho chiamato dei cognomi, ho chiamato dei corridori che hanno dimostrato di essere nel momento migliore della loro carriera, questo mi dà tranquillità, serenità. Poi, come ho detto prima, sarà difficilissimo vincere, però devo dire che abbiamo una nazionale che sta bene. Hai già fatto il piano partita, sì. Non ancora. Nel senso che è importante prima di tutto che i ragazzi controllino il percorso. questo non lo hanno ancora visionato, e quindi dopo aver visto il percorso venerdì avranno soprattutto loro le idee un po' più chiare. Io ce le ho già, però voglio che ce l'abbiano anche loro. Lo sapevo. Grazie Davide, grazie, a presto. Grazie a voi. Ciao Davide Cassani. Pier, lui lo sa già il piano partita, eh? È che mica lo viene a dire, mica lo viene a raccontare al mondo tre giorni certo, prima. Anche perché quest'anno, come dicevamo e come è stato confermato, abbiamo una buona squadra, ma dobbiamo anche giocare un pochino di sorpresa. Dobbiamo essere svelti, intelligenti, per una volta far lavorare un po' gli altri. Sì, giocare un po' in contropiede, cosa che ci riesce abbastanza bene. Non, la corsa non la dobbiamo fare noi. Un po' bravo. All'italiana. Un po' all'italiana con il falso 9. Non mi dispiace questa idea. Sì. Ovviamente torniamo a parlarne nei prossimi giorni, ovviamente lunedì, sta claro, già Davide Cassani lo riconvochiamo, ovviamente sarà Piero Augusto Stagi. Ciao Pier, ti devo salutare, devo chiudere. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Devo andare a Genova, non oggi, domani tutti convocati dal Salone Nautico di Genova. Se siete in zona veniteci a trovare, ci guardiamo un paio di barche insieme e chiacchieriamo di sport. Mentre venerdì, ve lo ricordo un'altra volta, facendo tutti i debiti scongiuri, ma il piano partita è già preciso, Coppa dei Campioni su questo tavolo, quella vera, Coppa dei Campioni su questo tavolo, a portarcela per mano saranno Kivu e Cafu, che saranno qui con noi. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, ciao a tutti. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!